partimmo dal paese con la valigia e la paura, in cerca di fortuna. Il viaggio fu assai duro, ma più dura è la fame, la fame di futuro. La fame di futuro. Quando arrivammo in Belgio, avevamo ancora l'odore d'Abruzzo nelle mani, ma qui nessun affetto, nessuna faccia amica, nessuna pietà per i nuovi schiavi, per i nuovi schiavi. E cominciammo a scendere nel culo della terra, profondo, mille metri e più. E sentire perfino che la nostra vita valeva meno di un canarino. E chi voleva uscire, ma qui la povertà è un peccato da punire. Tra le urla e il buio, l'aria densa e pesante, ci sembra un bel posto anche l'inferno di Dante. L'inferno di Dante. Un giorno come tanti, mentre tutti erano al mare, la galleria cominciò a fumare. Poi l'allarme suonato dal nostro amico Antonio, cominciamo a respirare ossido di carbonio. Ci bruciava i polmoni, pensammo ai sogni, alle speranze, alle illusioni, a quella nostalgia di chi lascia il suo paese per un piatto di futuro senza pretese. Senza pretese.